pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia di Luca Sardo Giambonino dal titolo Tranquillità. Son calmi i giorni in cui spira una fresca brezza. Dalla mia finestra sul mondo guardo il viale farsi florido e attendo l'alba con una tazza di caffè in mano e una sigaretta fumante nell'altra. Quanto è bello il mattino, quando ancora tutto tace ed hai il tempo per pensare alle tue cose in tutta tranquillità.